Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Grazie, signor Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piattanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Io credo, vi invito tutti a parlare di sport da ora fino alle 15, tutti convocati all'800240024. Credo che una delle cose più complicate in natura sia spiegare queste cose che sentiamo nella sigla, le dinamiche dello sport italiano all'estero. La nostra storia, le nostre vicende politiche un po' possono aiutare a capire la mentalità, e spesso il calcio ne è una parafrasi, ma oggi abbiamo una international guest star. Hello and welcome to the World of Football show here on Sports Tonight Live. Now we finally have our third guest and arriving sort of, you know, a little few minutes late. Please can we welcome Tancredi Palmieri to the show. E dunque questa era la sigla di Sports Tonight Live per Tancredi Palmieri, che è collega che racconta lo sport, in particolare il calcio italiano, agli inglesi, agli americani, attraverso BBC, CNN e attraverso appunto questa rete Sports Tonight Live di Londra. Ti posso assicurare che ti sarebbe piaciuto, buongiorno a tutti, di più se al mio posto in questo momento ci fosse stata Mina Zucchi, la ragazza che mi introduceva in quella trasmissione, Poi mi dai il numero di telefono. Va bene, anche contatto se vuoi, dovrebbe venire a Milano a breve, per cui poi ci organizziamo, già è pronto. Poi avete una redazione qua, ragazzi, cioè veramente c'è una vista bellissima, avete anche la vista sulla casa degli anarchici all'altro lato della strada, per cui quando c'è sessione di amore libero qua a Pienone redazione. Quello è l'ex derby. Ah sì? Certo. Ma vedo che c'è molta, però è già casa anarchici adesso, no? Sì, però è l'ex derby. Hai presente il derby del Tantuono, Cocchi Renato? Quello era il derby. Che e noi siamo qui. 800240024 se vogliono venire anche i nostri ascoltatori. No, dico, difficile, io credo, raccontare a inglesi e americani storie di arbitri, storie di arbitri che fanno venire le vene del collo gonfie ai tifosi, per cui si parla per settimane. Deve essere un po' complicato far passare il messaggio. Devo dire che vedi, quando cito arbitri, quando c'è qualche cosa, subito parte quasi il sopracciglio ancelottiano, direi, nell'interlocutore estero, che dice: ecco il solito italiano che parla di arbitri. Molto difficile negli ultimi due anni è stato riuscire a spiegare o a sintetizzare soprattutto le questioni di Scommessopoli. Più che Calciopoli, che ormai grosso modo è stata digerita, le questioni di Scommessopoli, perché spesso e volentieri, diciamo, negli ultimi anni è stato soprattutto quello il motivo per cui il calcio italiano è andato nelle prime pagine dei giornali internazionali. E alla loro vista, da lontano, sembra quasi che ogni volta ce ne sia una, che è più o meno giusto, ma in verità noi sappiamo che sono filoni investigativi cominciati due anni fa e che continuano e che ci vuole del tempo. E anche questo è difficile spiegare loro, che le indagini hanno bisogno di molte generazioni. Caro Tancredi Palmieri, immagino che sia stato difficile anche spiegare perché Conte, allenatore della Juventus, è andato a Londra e l'hanno dovuto mettere in un gabbiotto perché era ai domiciliari calcistici dietro un vetro fumé. Sì, devo dire che da questo punto di vista sono stati molto morbidi gli inglesi con me, non mi hanno questionato nel senso: ah, ma come si permette di venire altro? Anzi, diciamo che la questione maggiore a parte degli anglosassoni è stato: ma quanto la Juve sentirà l'assenza di Conte, quanto ne risentirà? Quando hanno visto che è passata come prima in classifica con due punti di vantaggio, ho detto: mi sa che non l'ha sentita molto. Mi sa che che, come dice qualcuno, si vede, ieri c'era Mondonico, dice: ma si vede meglio da là sopra, come gli allenatori del rugby. Questo non gliel'hanno, cos'è che non gliel'hanno ancora chiesto a Conte? È la prima domanda che gli avrei voluto chiedere. Ma tatticamente è stato meglio almeno vederlo là. Lui non dirà mai è meglio vederlo dallo skybox. No, perché lui vuole sentire, però, vuole sentire l'odore dell'erba, del sudore, del sangue agonistico. Vorrei vedere. Senti, adesso però sente anche l'odore di un sogno, e tu sai perfettamente qual è. I sogni son desideri. È il momento decisivo. Troppo! Con sincerità. Il top player deve essere un top player non a livello economico, deve essere un top player a livello calcistico. Eccellenza, eccellenza, è arrivato il signorino Tancredi. È in cortile che sta facendo scaricare il bagaglio. Finalmente. Venga, madre santissima, madonna mia, questo deve. Caro, ti facciamo ridere, caro Tancredi Palmieri. Pretendo quando torno a casa che mi dicano sempre: eccellenza, è arrivato il signorino Tancredi. Sì, BBC e CNN, contaci. C'è qualche ascoltatrice che credo non abbia gradito il nostro incipit sulla conduttrice del programma. Che tristezza maschilista, ma su. Madonna, ma su via. Sudore dell'erba, sei un tossico, non ho tanto sudore dell'erba, ma ragazzi, ma cosa capite? Allora, adesso, prima di andare da Pescara, primo convocato di oggi, 8.00.24.00.24, fuori tutta la verità su Drogba. Allora, si erano già contattati la scorsa estate, ma era difficile competere con le cifre cinesi. Visti i problemi economici, o meglio, quelli che si subdonano, i problemi economici che ci sono allo Shanghai, Drogba sta pensando di tornare. Il contatto non è molto recente, nel senso che già da 2-3 settimane che c'è stata la proposta da parte dell'agente di Drogba, l'ascolto da parte della Juventus. Finora le parti sono su Drogba, che vuole tornare back for good, vuole tornare e rimanere a Torino, quindi con un contratto di 2 o 3 anni. La Juventus, da parte loro, non offrirebbero nemmeno un anno e mezzo, quindi dopo questo mezzo anno, anche l'anno dopo, perché comunque sia Drogba costa, e costa tanto. Sì. Però per quella che è l'atteggiamento degli agenti di Drogba, e per quello che è, per quanto mi risulta, l'atteggiamento della società juventina, c'è grandissima disponibilità nel chiuderlo per i prossimi 6 mesi, anche perché si è fatto un altro ragionamento. Nonostante sono 2 anni che la Juve faccia il miglior mercato, però sì, nonostante i vari Vidal, Marchisio, Samoa, tutto quello che vuoi, abbiano un'età che ti fa progettare un ciclo, però alla cima di questo ciclo ci sono 2 nomi che non si sa per quanto possono reggere a questo livello. Dico Buffon, ma soprattutto Pirlo. E c'è la sensazione che sarebbe quasi uno spreco sprecare questa stagione, questo momento, hai un Pirlo, certo. Per cui o lo prendi ora il grosso nome e ti giochi il tutto per tutto. Esattamente, sì, per cui d'accordo. Anche se è un pochino oltre il budget, le finanze che richiede Drogba sono un pochino oltre il budget della Juventus, però c'è una grandissima disponibilità, nella misura in cui si parla già, come dire, ok, cosa facciamo per dopo, come a dire, vabbè, tanto lo sappiamo che lo chiudiamo da qui a gennaio. Per cui in questo momento io il mio penny lo metterei più su Drogba alla Juventus che non, peraltro anche troppo in ritardo, perché fino a stamattina i bookmakers davano Drogba alla Juve 33-1, adesso è a 1-33. Guarda, mi sono scritto le cifre, se le trovo in mezzo a tutto sto casino poi le rendo. Non li confondere con i numeri delle fidanzate, mi raccomando, perché sennò è pericoloso. Senti, poi mi spieghi anche tutta la verità su Mancini, su Balotelli, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto parliamo con gli ascoltatori. Andrea da Pescara è il primo. 8.00.24.00.24, numero verde. Andrea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Tutto a voi. Senta, una domanda di carattere tecnico, se mi potete rispondere, secondo la vostra intuizione. Io chiamo da Pescara, Zeman lo conosciamo abbastanza bene. Sì. Volevo un po' chiedere a voi se questo periodo positivo della Roma può dipendere dal fatto che la squadra forse finalmente si è, diciamo così, si è convinta dell'idea di questo canalatore molto particolare, quindi o si segue ciecamente, al di là magari di qualche altro allenatore che si basa su altri principi, grinta, cose di questo genere, oppure la macchina non funziona. Beh, no, al momento funziona, secondo me la Roma andrà avanti tutta la stagione un po' in altalena. È una squadra che credo possa piacere molto agli americani, di cui che sono anche proprietari della Roma, caro Tancredi, perché è una squadra che le dà e le prende molti gol e quando ci sono risultati grossi. Sì. Poi io quando sento dire, vabbè, ma questo l'ho detto anche ieri negli altri giorni, che De Rossi non è integrato, rido. Sì. Io devo dire anche una cosa: se noi guardiamo, se non vado errato, sono 9 punti di svantaggio della Roma dalla Juventus, se non vado errato. Noi dobbiamo guardare la difesa della, perché al di là di molte discussioni su Zeman o altro, la difesa della Roma è composta per 3/4 da 3 che hanno cominciato a giocare quest'anno in Serie A, che può esserci un Marquinhos che ha un futuro davanti splendente, però comunque sia gli devi dare un attimo per capire i meccanismi. Se non si fossero persi forse, diciamo, 6 punti stupidamente, la Roma sarebbe là dietro, seconda davanti a tutti: Castan, Piris, Marquinhos. 6 mesi di ambientamento in Serie A, ma sono il minimo per questi. Vedo un file albanese, che cos'è? Lo mandiamo? Io volevo chiedere a Zeman di diventare il Papa in questo film, poi però non mi sono permesso perché stavo attraversando a cavallo tra Pescara e Roma un periodo professionalmente delicato e quindi non volevo, come dire, disturbarlo, perché è giusto. C'è Albanese che lo voleva Papa nel suo film. Ma era un gioco o era veramente Papa? Non fare domande difficili, falle fare a me. Massimo da Verona. Sì, pronto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Grazie, Senta, per l'opportunità. Grazie a lei. Io volevo intervenire sul tema del campionato che riguarda la vera antagonista della Juventus. A mio avviso non c'è, o meglio, non c'è la squadra che sostituisce il Milan dell'anno scorso. Quindi, secondo me, assisteremo a un campionato in cui la Juve prenderà sempre più il largo. E questo, secondo me, per il motivo principale che sia l'Inter che il Napoli, le due squadre che attualmente sono più accreditate come anti-Juve, non sanno imporre la partita, non fanno la partita. Quando fanno la partita perdono. E questo abbiamo visto il Napoli l'ultima volta e l'Inter che è caduta con le piccole. Sì, non sono a livello della Juventus. Io sono abbastanza della sua idea nel pensare che prima o poi la Juventus prenderà il largo. Adesso vediamo cosa succede sul mercato di gennaio. Se poi arriva anche Drogba, tombola. Però credo che anche l'Inter si rafforzerà, soprattutto davanti e magari anche in mezzo al campo, come è stato in parte anticipato da Massimo Moratti. C'è ancora della distanza comunque. Secondo me, nel momento in cui, se non sbaglio, il 12 febbraio ci sarà il calcio d'inizio degli ottavi di finale di Champions, in quel momento secondo me la Juve avrà almeno un +7 sulla seconda, perché questi 2 mesi, anche con il ritorno di Conte, ha un calendario dove, se non vado errato, non incontra nessuna delle avversarie dirette, e considero fino al Milan in classifica avversario diretto, diciamo, nessuna per 7 partite, per quindi ha la possibilità di scavare il gap. E l'anno scorso abbiamo visto che la cosa migliore della Juventus, e così si vincono i campionati, è non disperdere punti con le piccole proprio. Per cui adesso è il pericolo. Secondo me, a me dispiace che non ci sia quel Berbatov che ha accettato l'offerta della Fiorentina. Berbatov. Della Fiorentina. Ma chi Giuda? perché secondo Berbatov, me la possibile Pinocchio. Anti-Juve, non voglio fare per forza quello che vuole rinfocolare il campionato per guadagnarsi lo stipendio, che poi è anche quello che facciamo, sì. Perché sennò che siamo a fa fino a giugno, però secondo me sul piano del gioco, della personalità, l'unica vera anti-Juve che abbiamo visto finora è la Fiorentina, che forse ha sbagliato partita negli ultimi 10 giorni, sì. Ma poi ha guardato in faccia chiunque, dispiace, basterebbe un mezzo attaccante. Sai, alla Fiorentina manca anche Jovetic, non dimentichiamolo, è la superstar che hanno, al di là di quella meretrice di Berbatov, no? Come si dice in bulgaro? Io c'è un produttore bulgaro alla CNN, lo chiederò, se vuoi dentro la fine della trasmissione posso farmi dire come si dice. Va bene, ti ascolto perché quest'ora non c'è nulla, ma sappi che fai schifo, scrive Alex, forse da Reggio Emilia. Grazie Alex. Me li prendo io. No, per dovere. Sono tutti miei. 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Paolo, Milano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Non so se stavate ancora parlando di Conte o se siete passati. Stiamo parlando di tutto quello che vuoi. Di tutto quello che voglio. Sì. Ho sentito solo delle opinioni al telefono, ma io ho dei pareri completamente diversi sul calcio, che credo che da anni, lo conosco abbastanza anche dal di dentro, andrebbe molto ridimensionato. Diversamente qualche arabo sceicco un giorno comprerà le migliori 18 squadre del mondo e si farà giocare nel deserto, così nel giardino di casa. Nel giardino di casa, così vince sempre lui, è contento e fa sempre festa. Ma se hanno bisogno di una radio ci offriamo, peraltro nel frattempo, per che ci Dio, sarebbe l'ideale. Ma mi piacerebbe che il calcio si ridimensionasse con talenti locali, ma è tutto in mano ai procuratori, quindi questo non avverrà mai. Beh, ma in parte però sta succedendo, no? Tra i fumi della crisi economica, la necessità comunque di esplorare i vivai, comunque lo scarso credito e gli scarsi soldi che ormai abbiamo da spendere sui mercati globali, perché quelli ce li hanno gli arabi, mi sembra che mai come in questa stagione stia accadendo. È facile parlare di El Shaarawy, di Destro che ancora deve esprimersi, ma ce ne sono tanti, di De Sciglio, ma ce ne sono tanti di giocatori che stanno emergendo, che stanno uscendo dai vivai. Guarda la Roma. Io devo dire una cosa, Carlo, ultimamente uno dei motivi su cui mi hanno più interrogato all'estero è stato la crisi della Serie A, ma cosa succede? Ovviamente non si poteva negare, insomma, Ibrahimovic, Thiago Silva, tutti che vanno via, però è esattamente questo il punto: ci sono giocatori che altrimenti non avremmo mai visto. Vivai, come dicevano i Red Hot Chili Peppers, destruction leads to a very rough road but it also breeds creation, e io penso che mai come adesso noi possiamo dire ok, mettiamo la testa sotto, però anche con il gioco propositivo che l'Italia e Prandelli ha esportato ed è rimasto negli occhi degli osservatori internazionali, secondo me dobbiamo prendere questa occasione anziché piangerci addosso. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata, penso devo andare a cercarla nei prati. Dunque, lunedì abbiamo sentito Emiliano Mondonico che però era impegnato perché prima gli erano scappate le galline, poi stava curando la faraona, poi i tacchini. Nel frattempo però ci ha detto, parlando... Meno male che non ha detto le gallinelle, sto curando le gallinelle. No, non ha detto così. Nel frattempo però ha espresso la sua opinione sul top player della Juventus, dicendo: se prende un top player non fa bene perché segna... rischia di segnare meno di prima, rischia di creare, di inceppare certi ingranaggi, mentre i nostri ascoltatori estremamente poliglotti parlano di curva a proposito di... del circuito di Formula 1? A proposito di Berbatov. Ah, ok, mamma mia. Cosa ne pensi tu di questa opinione di Mondonico? Allora, in inglese direbbe I see his point, cioè ora capisco perché Mondonico dica questo, perché lui dice, considerato che ci sono, che forse la maggior risorsa, non solo a livello di gol, della Juventus sono le incursioni dei centrocampisti, il movimento, e allora gli spazi che aprono gli attaccanti, il Quagliarella la situazione piuttosto che il Vucinic e altro, magari se ci fosse un attaccante che non lavora di meno per gli altri chiuderebbe un po' quello spazio. Io capisco quello che lui dice, può avere un senso. Però devo dire anche due cose. Uno, che ci sono partite dove la Juve fatica pazzescamente a segnare e potrebbe vincere 5-0. L'ultima che mi viene in mente è Juventus-Lazio, voglio dire, dove veramente non solo i miracoli di Marchetti, proprio il fatto che manca a volte l'uomo d'aria. Ero allo Juventus Stadium per Juventus-Chelsea. Ma quel pippone di Bednar da dove, perché l'hanno preso? Perché qualcuno dovevano prenderlo a un certo punto. Cioè, noi certe volte pensiamo che il mercato sia molto differente da quello che è descritto in come si chiama? Oddio, che flash, il film con Lino Banfi, non mi l'allenatore nel pallone. L'allenatore del pallone, ovviamente. A volte pensiamo che sia in quella maniera. Ora, per carità, non per sminuire, come detto, è stato il miglior mercato degli ultimi due anni, quello della Juventus, ma non si aspettavano veramente di rimanere con il cerino in mano a fine mercato. Quindi c'era l'opzione Bentham, ha detto ma sì, proviamolo. Devo dire però una cosa, ero allo Juventus Stadium per Juventus-Chelsea. Quando la Juve ha segnato, dopo mezz'ora, dicevo ma qualcuno entra in area, perché arrivavano a cross, facevano movimento e c'era sempre Vucinic che stringeva sulla tre quarti. E va bene, e questo è quello che Vucinic farebbe anche in presenza di un attaccante, ma Quagliarella che andava largo e altro, dicevo ma qualcuno ci entra in area a ricevere i cross. Nel momento in cui, sembrerà una stupidaggine, ma nel momento in cui Quagliarella se n'è stato buonino al limite dell'area, gli è rimbalzato addosso il tiro fatto da Pirlo. È anche un fatto di statistica, se non ci vai in area la palla non la spingi mai, per cui credo, capisco perché Mondonico lo dica, ma non esiste che la Juve segni di meno con un top player. Gli risolverebbe le situazioni intricate e poi quando segni il primo gol l'altra squadra si scoraggia, per cui ha voglia, entra tutta la cavalleria. In queste occasioni molto spesso il problema è sbloccare questo tipo di partite. Prima di tornare ai nostri ascoltatori convocati, 800 24 00 24, Daily Star scrive: Newcastle e Sunderland in trasferta, Reading in casa, 270 minuti che decideranno il destino di Roberto Mancini, a fortissimo rischio di licenziamento dopo lo scivolone nel derby, malgrado sia stata la prima sconfitta casalinga del Man City in due anni, nonché la prima in assoluto di questo campionato. Intanto c'era la querel Costa Curta Mancini, la risentiamo? Primo giudizio di Costa Curta. Caratteristiche di Snyder, quindi è un giocatore che in questo momento non ci può essere utile, al di là delle sue qualità tecniche che sono importanti. Questa dichiarazione non ti convince, questa dichiarazione? Però Mancini queste cose è sempre molto sincero, cioè così Costa Curta, sembra chiaro, no? Ti sentito tutti retromarcia. Io veramente non ricordo di averlo detto, ma io col Manzo, credo di essere, adesso voglio dire amico del cuore, ma insomma, io e il Manzo credo che siamo buoni conoscenti, buoni amici. Tra l'altro gli ho mandato un messaggio per dopo la partita con lo United, ma poi in questo periodo non mi sembra il caso di creargli tanti casini al povero Roberto. E dunque, caro Tancredi, essendo Palmieri, a Milano, io spero che Costa Curta non mi incontri per strada, perché io me stavo bel bello guardando calcio, è sempre calciomercato, ho sentito questa cosa, ho detto no ragazzi, ma qualcuno mi verifica, con i miei umili 18.000 follower, ho detto qualcuno verifica che qualcun altro l'abbia sentito. Costa Curta ha appena cominciato ad andare in lungo e largo, urbi e torbi, in sei continenti è stata ritwittata la cosa, veramente. C'era uno ieri, un account di notizie del calcio che era una roba tipo 100.000 e passa followers, fa Milan legend Costa Curta insulting Man City manager Mancini. Per cui, siccome... Ma sai quante volte gliel'ha detto in campo? Bisognerebbe sentire qualche storico inviato da Genova per sentire qual è il precedente, il record dei scontri diretti tra Costa Curta e Mancini. Costa Curta e Mancini. Insomma, sono due che secondo me non se la mandano a dire l'uno e l'altro. Ma figurati, è un conoscente, sì, d'altra parte. Quanti ne conosci che li mandi di qua e di là? Riccardo Pistoia, buongiorno. Buongiorno, Carlo, buongiorno a Salve. Tancredi. Buongiorno. Vi volevo fare un indovinello. Indovinello. Parlando di attaccanti, l'attaccante italiano più sottovalutato. Italiano, cioè di nazionalità italiana, giusto? Di nazionalità italiana, esatto. Ma secondo lei? Secondo me è Totò Di Natale. beh, insomma, però, fino a un certo punto, perché Totò, cioè, sì, sottovalutato, convocato in nazionale, praticamente, però le grandi squadre l'hanno sempre ignorato. La Juve gli manca l'attaccante invece di andare a cercare Drogba. Attenzione, due anni fa la Juve voleva Di Natale e Di Natale ha detto preferisco chiudere. Sì, sì, è vero. Insomma, è una storia molto, molto particolare. Poi Di Natale è il Messi dell'Udinese. Posso dire una cosa? All'estero forse è più valutato, più apprezzato che da noi. Cioè, Totò, legend Totò, dappertutto continuamente me lo chiedono. Poi devo dire che sono rimasti molto colpiti l'anno scorso quando è successa la tragedia di Morosini, il fatto che lui si è esposto in prima persona nei riguardi della famiglia. È rimasto molto molto in considerazione il nome, però c'è anche da dire, non so perché è sottovalutato, c'è anche da dire che insomma ha la sua età, ma soprattutto i suoi obiettivi, le sue ambizioni sono... mi stupirei di vederlo continuare già il prossimo anno, ecco. Sì, e d'altra parte secondo me lui ha fatto una scelta, sì, non ti dico di cuore, ma di carriera corretta, anche perché tutto sommato si trova una squadra che gioca per, sì, lui, che gli permette di essere una leggenda anche, sì, anche all'estero, quindi una scelta. Se devo dire il nome più sottovalutato negli ultimi vent'anni, io dico il mio amato Igor Protti, voglio dire. Igor Protti, l'ho vissuto tutto un anno a Bari, segnava in tutte le maniere, ragazzi. Ci vuole continuità nei risultati. Diego Brescia. Buongiorno signor Zenta. Buongiorno. Grazie mille. Grazie io volevo parlare di un giocatore della Juventus che secondo me è iper sopravvalutato, e si parla di Bonucci. Mi creda che io quando lo vedo entrare in campo da titolare mi tremano le gambe. Perché veramente non capisco come Conte, che può avere comunque anche altre alternative, non mi dica Lussio. No, guardi, quello non ho neanche capito perché l'hanno preso, sinceramente. Però adesso, visto che hanno detto che a gennaio parte, quindi non è più un mio problema. Però sinceramente io Bonucci, mi creda, già nella Juve lasciamo perdere. Poi siccome non le piace Bonucci. Poi per di più mi tocca vederlo anche in nazionale. Perché io dico, vabbè, la Juve me lo devo tenere. Appunto, anche in nazionale. Secondo me, lei, Diego, è un po' prevenuto, perché io Bonucci l'ho visto giocare comunque uno splendido europeo. C'è Barzagli, che è un super giocatore, sì, in questo momento, e un centrocampo che copre. Mi sembra che Bonucci non sia il principale problema della Juventus. No, anzi, secondo me ha avuto una crescita pazzesca, devo, esatto, dire. Ho apprezzato il fatto che Chiellini, gli ultimi europei, da un punto di vista tattico più che altro, ha avuto con lui lo stesso, diciamo, lo stesso atteggiamento che ha avuto Cannavaro nel 2008 con Chiellini. Chiellini era nel 2008 l'astro nascente della difesa, però ancora da controllare tatticamente, da dosare. E io mi ricordo la partita perfetta che fece con la Spagna nei quarti, e nessuno forse se l'aspettava. Chiellini nella stessa maniera con Bonucci, nel momento in cui Bonucci poteva sentire il debutto agli europei, l'ha dosato, gli è stato accanto in questo senso. A me pare che la crescita di Bonucci sia veramente fantastica. Deve forse nelle grandissime partite un attimo controllarsi. Io l'ho visto con il Chelsea ancora, che gli inizi sentiva la tensione, sì, ma assolutamente avercene, ragazzi. Ci fermiamo per il traffico, poi c'è Francesco da Brescia, 800 24 00 24, e poi però Tancredi Palmieri dalla BBC e dalla CNN e da tutto quello che vuoi. Non mi chiedere l'agendina. Allora, adesso Francesco da Brescia e poi con Tancredi Palmieri andiamo sulla Italian Connection del Manchester City. Francesco. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, io sono tifoso milanista, volevo chiedere se era possibile, secondo lei, un giocatore come Giuseppe Rossi, non so che in situazioni fisiche potrebbe andare bene per il Milan. E visto che Mancini ha mi viene una battutaccia, scambio alla pari con Pato. Com'è? Mi viene una battutaccia, scambio alla pari con Pato. No, Giuseppe Rossi, abbiamo sentito il suo procuratore una settimana fa, insomma, è ancora sta lavorando, è ancora abbastanza lontano dalla condizione dopo l'infortunio così grave che ha avuto. Mancini come allenatore potrebbe andare bene nel Milan? Questo lo chiedo al mio ospite. Questo lo chiedo al mio ospite Tancredi Palmeri. Se Mancini riesce a se il Milan riesce a inghiottire, digerire e dimenticare la storia che hanno avuto loro, proprio anche personalmente, tra Mancini e Galliani, che non è che sono solo conoscenti tipo Costa Curta, proprio sono molto conoscenti, direi. Vuoi che ti faccia risentire cosa ha detto Capello quel giorno che allenava la Roma? Alla Juventus mai. Beh, no, giusto. E sicuramente vuoi dire, nel momento in cui tu vieni dall'Inter e dal Manchester City, è difficile che poi, con tutto il rispetto, tu vada al Parma o all'Udinese. Ci sono un numero di 8, 10, 12 squadre al massimo in Europa che puoi allenare. Per cui, se il mercato di Mancini fosse limitato e ci fosse veramente il Milan, sì, Mancini direbbe sì. Però mi parrebbe strano che Galliani, con la storia che hanno avuto, andasse proprio da Mancini. Anche a me. Cioè, a meno che proprio non c'è la volontà di fare uno sgarbo all'Inter, ma mi parebbe veramente strano. Ecco. Sì, ecco, però cosa succede a Mancini? Succede che Mancini e Balotelli sono entrati nell'immaginario collettivo inglese molto più di quanto noi si pensi. Balotelli è il posto che avevano prima i vari Rooney, Gerrard, sul campo e fuori dal campo, se l'è preso tutto Balotelli, ma proprio tutto. E con questo anche la sua relazione con Mancini, che è uno che non le manda a dire. E ogni piccola, se noi crediamo di essere troppo morbosi nell'attenzione al calcio, ogni piccolo sguardo mandato o non ricambiato in ogni sostituzione tra Mancini e Balotelli è sempre vivisezionato. Non erano abituati a questi grandi show-off in Inghilterra. Quello che succede è che io non credo che ci siano solo 270 minuti a disposizione per Mancini, come dice il Daily Star, perché comunque sia gli sceicchi ancora lo apprezzano tantissimo. Però è anche vero che c'è Chiki Beghiristain, che già insomma è ben assediato al Manchester City, per cui si stanno preparando tutti i ponti per Guardiola. Allo stesso tempo Mancini ha fatto un voto di fiducia nei confronti di Balotelli nel momento in cui l'ha schierato al primo minuto contro il Manchester United, perché nessuno probabilmente lo avrebbe fatto. Tutti sarebbero andati per Dzeko, Tevez, Agüero. Questo aver giocato in quella maniera l'ha vissuto un po' come un tradimento. Mancini rimane comunque il primo mentore, forse il più profondo mentore e supporter di Balotelli. Però io credo che d'ora in avanti, considerato che si sta giocando il suo destino, la sua permanenza al Manchester City, che secondo me continuerà solo ed esclusivamente se vincerà ancora la Premier, io credo che difficilmente vedremo Balotelli con certe occasioni come quelle che abbiamo visto domenica scorsa. Io penso che, al di là del paragone con la Gioconda che ha fatto il ben noto Mino Raiola, con quella pagina agghiacciante che abbiamo visto sulla stampa inglese e descritto nei giorni scorsi, io credo che Balotelli comunque sia un giocatore che ha bisogno di spazio, ha bisogno di giocare, ha bisogno di giocare con continuità. Non può farlo al Manchester City. Resterà al Manchester City? Sai che bisogna stare attenti alle parole di Balotelli, di Raiola. Non spreca mai parole, non solo soldi, ma anche parole. Prima Raiola era tutto un Manchester City è la destinazione ideale, in Inghilterra, ma forse in futuro, ma ora si trova benissimo. Stavolta non ha detto oh no, si trova benissimo. Ha detto è come la Gioconda. Non ha detto non è invendibile o non vuole tornare, ha detto costa troppo. È già un differente approccio. Ed è così. Però non vuol dire che ragazzi non torna, vuol dire che un domani il Milan prima o poi qualcuno lo dovrà prendere, magari non a gennaio, ma forse a giugno, ma uno prima o poi dovrà prenderlo. È più facile al Milan che prendano qualcuno che venga dalla scuderia di Raiola che da qualche altra parte. Soprattutto se nel momento in cui verrà Guardiola verrà fatto il grosso colpo a Manchester City, che sia Falcao o no. Io non credo. Guardiola al City? Sì. Ma non al Milan, perché no, ovviamente credo, al City. Non ci credo neanche, no, se no, me lo fanno vedere. Mai. Diego Lecce. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo cambiare argomento riguardo il calcio, volevo parlare del basket. Prego, dica tutto. Io chiamo da Lecce, ovviamente sono un gran tifoso del Brindisi. Sì. Volevo sapere come lei giudica il campionato di quest'anno del Brindisi, dopo anni diciamo di ottimi campionati anche nelle serie, diciamo, inferiori. Sì. L'ascolto da Rani. Brindisi si è ascoltata le dita nella prima promozione, adesso sta facendo, si è attrezzata, è riuscita a risalire, cosa sempre piuttosto difficile, e adesso io credo che sia pronta per rimanere dov'è, quindi tra i grandi, nel basket che conta, anche perché è difficile trovare in Italia un posto, e sarebbe auspicabile per il basket italiano, perché è difficile trovare nel derelitto basket italiano un posto in cui c'è così tanta passione come a Brindisi. Io volevo chiudere con il mio ospite invece, Tancredi Palmieri, dunque Drogba alla Juve, Balotelli resta al City, sì. E chi si muove? Tu De Rossi? Io mi muovo a casa. No, De Rossi rimane. Secondo me De Rossi a Roma. Ma non è inserito. A gennaio è inserito. Non è inserito, ma non si è inserito nella Roma. De Rossi ancora non ha trovato l'indirizzo di Trigoria. Ancora sta là con la Smart che gira. Non si è inserito, rimane. L'ha detto il capo. Rimane, e la Roma è talmente in crescita che secondo me. Poi, sai, in questo momento. Manchester non City. Si è inserito neanche Pjanic, che tra l'altro ieri sera ha giocato una partita. Sono tre partite che gioca Pjanic. Cosa dici? Sarà un discreto giocatore. Mancini in questo momento ha poco potere d'acquisto, per cui anche per questo credo che a gennaio difficile che vada al City. Leonardo da Monza, poi chiudiamo davvero. Sì, buongiorno Genta. Buongiorno. Io telefonavo per parlare di Olimpia. Quando è che iniziamo a dare le colpe a Sergio Scariolo? Questo è un pessimo allenatore, fa giocare male la squadra, ha scelto giocatori non all'altezza. Quando è che iniziamo veramente a contestare Scariolo con grosse contestazioni, come abbiamo fatto con Vucchi, per far sì che se ne vada? Non ne possiamo più di questo allenatore. Che è uno che in carriera ha vinto pochino, compresi due europei con la Spagna. In Spagna lo considerano poco. Lo considerano poco, qualche liga l'ha vinta, insomma uno degli allenatori più quotati d'Europa. Poi che non stia andando bene è cosa nota, che sia quasi fuori dall'Eurolega e magari venerdì arriva il timbro ufficiale è altra cosa nota, però da lì a dire che è un pessimo allenatore mi sembra una mezza bestemmia cestistica. Tancredi Palmieri, ti restituisco ai tuoi media anglosassoni, ma torna presto. Prestissimo. Chi, ragazzi, ci porti? Vi porto, se volete vi porto il sorteggio di Champions la settimana prossima. Non sarebbe una cattiva idea. Grazie per essere stato con noi. Piacere, ragazzi. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Noi ci sentiamo, dunque, oggi che giorno è? Mercoledì, domani alle 2 e dopodomani alle 2, sempre qui, tutti convocati. Merry Christmas to all Manchester City fans, and thank you for your support.